visto guardare la lancetta, scorre in fretta, niente aspetta, neanche il cielo quando rigetta gocce sopra l'erba, osservo dalla finestra il tempo senza sosta, con foto messe in mostra, lo fermano, ricordano, emozioni smuovono, tempi che furono, esperienze che durano, pianti che depurano, poi ti dici stupido, problemi da cupido che quei giorni si dimenticano, rieccolo il tempo, sento il cambiamento, volto, voce, corpo, ennesimo supplemento, aumento dei prezzi, nuovi palazzi, dazi e taxi, e il futuro l'affronti con i tuoi passi, in assi verticali, più dialoghi tra persone, il verde che non sia solo nelle banconote, note sempre verdi o che fuggono, a volte non vorresti ricordare, inferni che pungono, risposte ti giungono un domani, scrivi sui diari giorni di ieri, sì, per ricordarli, puoi odiarli o amarli, cercare vendetta, ma quando stai per farlo, aspetta.